in primo piano. Le 7:20, una buona giornata da Laura Bettini. Vediamo insieme i quotidiani di oggi, che in gran parte ovviamente sono dedicati alla campagna elettorale, alle ultime battute di ieri, di cui abbiamo anche già molto detto nel giornale radio. Cominciamo dai titoli però. Corriere della Sera, la sfida finale dei leader. Grillo arriva a Roma, riempie la piazza della sinistra, finita la campagna elettorale. Moretti sul palco con Bersani, Berlusconi salta il comizio di Napoli, Monti fiducioso nella rinascita, Grillo riempie Piazza San Giovanni. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'editoriale di Angelo Panebianco, che poi leggeremo, la libertà dell'individuo, debolezza dei valori occidentali. Al centro pagina Pistorius, foto notizia, paga e torna in libertà, scarcerato su cauzione, lo aspetta il processo. E poi c'è ancora molto spazio su tutti i quotidiani ai nuovi segnali che arrivano dal Vaticano, segnale del Papa alla Curia, sostituisce e invia in Colombia il vice ministro degli esteri, promozione di Balestrero, uomo forte del Vaticano. Repubblica, Bersani e Grillo, duello finale, il leader PD, lui l'avversario, il Movimento 5 Stelle riempie San Giovanni, il segretario democratico è un miliardario, io invece figlio di un meccanico, Berlusconi, Noemi e Rubi, invenzioni di Repubblica. Sempre su Repubblica, la Svizzera e il Cavaliere, nessun accordo sull'IMU. E poi scandalo in Vaticano, saltano le prime teste, così l'articolo di Marco Ansaldo, ma all'interno ci sono molte e più dettagliate pagine su quello che accade, perché appunto Repubblica prosegue nel filone che ha intrapreso in precedenza. La Stampa, alle urne con l'incognita Grillo, il leader del Movimento 5 Stelle riempie San Giovanni, Bersani parassita, il segretario del PD ci porta in Grecia, così dice Bersani, l'ex comico chiude la campagna elettorale al grido di tutti a casa, polemica per i giornalisti allontanati, Monti un ventennio perduto per colpa della politica. La fotonotizia è dedicata a Piazza San Giovanni. Altri temi in prima pagina della Stampa, IMU, la Svizzera gela Berlusconi, anche qui come su Repubblica, la Svizzera gela la promessa elettorale di Berlusconi di restituire agli italiani 4 miliardi di euro versati per l'IMU sulla prima casa. La ministra delle finanze elvetica, nessun accordo sul rientro dei capitali prima del 2015. E poi ci sono anche spazi per le sfide nelle regioni in bilico. In Lombardia il giudizio finale sull'era PDL Lega, volata a 3 per la vittoria in Sicilia. E dalla Stampa passiamo al giornale, il giornale Ultima Spiaggia, i 10 motivi per votare centrodestra, Berlusconi, l'IMU pronto a rimborsarla di tasca mia e alzerò le pensioni minime. C'è poi l'elenco in prima pagina di questi 10 motivi per votare il centrodestra. Il guru no TAV viaggia sulla TAV e Grillo fa cacciare i giornalisti, altro che ecologia e libertà di stampa. Sempre sul giornale ne scrive Paolo Bracalini. Feltri scrive poi a Celentano, si apprende, se voti 5 Stelle sfasci tutto. E questo è il giornale. Libero. Libero ha un disegno che raffigura Monti e la Merkel, una caricatura, l'eredità che ci lascia Monti, 1000 disoccupati al giorno per i prossimi 2 anni, anche la UE lo scarica. L'apertura però, il titolone è dedicato alla promessa di Silvio, così si scrive, vi ridarò l'IMU con i miei soldi. Berlusconi risponde alle polemiche sulla tassa sulla prima casa, se non rispetto l'impegno fatemi causa e vi risarcirò, e aggiunge, alzeremo le pensioni più basse. E poi ancora, sempre in prima di Libero, titoli che riguardano un po' tutti, appunto la chiusura della campagna elettorale, il parassita Bersani fa la crociata contro i miliardari, e poi spintoni insulti, così Grillo riempie piazze e urne, sceriffo del fisco nascosto per paura di perdere voti, la scomparsa di Befera, ne scrive Gianluigi Paragone. E andiamo alla Sole 24 Ore, che apre su l'Europa, un altro anno di recessione, Italia verso la promozione europea sul deficit, Moody's toglie a Londra la AAA, Bruxelles rivede al ribasso le stime, nell'area euro PIL meno 0,3%, ripresa da fine 2013, allarme disoccupazione italiana sale al 12%. L'editoriale di Alberto Rioli, il dovere del lavoro, diritti e competitività. Al centro pagina Fisco, imprese, lavoro, la mappa per votare, la folla di Grillo invade Piazza San Giovanni, allontanata la stampa, poi riammessa. Bersani punta su occupazione e manifattura, Berlusconi su tasse e IMU, Monti rilancia le sue riforme e qui poi Sole 24 Ore fa un suo schema di efficacia e realizzabilità delle misure che ciascun partito e ciascuna coalizione ha proposto per affrontare appunto questi tre temi: fisco, lavoro e sviluppo. Su Avvenire l'apertura è: stop, tocca agli italiani, Bersani ci siamo, governeremo, Monti più lavoro, Grillo si cambia, il Cavaliere promette pensioni su. Monti a Firenze per un nuovo rinascimento, l'Unione Europea ci promuove, recessione finita. Potrò chiedere a Bruxelles una terapia d'urto per l'impiego di giovani e donne. Berlusconi cala gli ultimi jolly, 8 miliardi per introdurre il quoziente familiare. Grillo riempie Piazza San Giovanni a Roma, ora fase nuova, politici per voi è finita, cronisti bloccati, interviene la polizia. Bersani con il comico, l'Italia farà la fine della Grecia. Cancellieri, votate, votate, votate, questo è l'appello del ministro. Il Giorno, ultimi appelli per il voto, Berlusconi rilancia sulle pensioni, Monti punta sul lavoro, Bersani arruola Moretti, Grillo Pienone a Roma, Ambrosoli e Maroni chiudono a Bergamo. La fotonotizia invece è stata dedicata ai resti dell'aereo di Missoni che sono stati forse trovati allo Stroques, forse c'è stata un'esplosione in volo, ci dice il Giorno. Pezzi di verità, questo è il titolo di apertura. Sul Manifesto urla il vento, Grillo sbarca con il suo camper in una Piazza San Giovanni gremita, è l'uomo che non ha bisogno di chiedere, il grande capo che vuole mandare tutti a casa, è l'altra faccia del fallimento dei partiti, è lo specchio della crisi della sinistra. L'esito del voto e della legislatura è appeso alle 5 Stelle. L'unità siamo noi, il futuro dell'Italia, Bersani chiude a Roma, non serve il voto di protesta, Moretti sul palco, liberiamo gli italiani. E poi Grillo caccia i giornalisti e urla, per voi è finita, il Cavaliere fugge dalla piazza, la Svizzera lo sbugiarda. La Padania, ora o mai più, la foto è di Roberto Maroni, adotta un indeciso, portala a votare Roberto Maroni, presidente della regione Lombardia. E poi sempre sulla Padania, sinistra pancia piena e Grilli in testa. Rapidamente, prima di cedere le notizie, di cedere la linea, oscurati da Grillo, questa è l'apertura del Secolo XIX, battaglia finale sugli indecisi, l'apertura del Messaggero, Bersani attacca il Movimento 5 Stelle, sul palco Moretti, Berlusconi salta il comizio, alzeremo le pensioni. Giusto una notazione, la Gazzetta dello Sport è già in area di derby, è Balo Derby, questa è l'apertura della Gazzetta dello Sport e la fotografia è ovviamente quella di Mario Balotelli. Ci ritroviamo tra pochi istanti. Alle 7:34 minuti, ancora una buona giornata da Laura Bettini. Riprendiamo la rassegna stampa dando uno sguardo al Fatto Quotidiano, prima di tutto per restare in tema di elezioni, sia pure in modo un po' tangente. Fatto Quotidiano che, ricordiamo, oggi apriva Grillo, fa il pienone a Roma, ma caccia i giornalisti dal palco e poi prosegue in Piazza San Giovanni. Sono in 100.000, lui dice 800.000, indica i politici e ripete: per questa gente è finita, se la prende con le TV italiane, con continuano a mentire. Per allontanare i cronisti chiama i carabinieri, ma è una brutta scena, la folla lo acclama assieme a Casaleggio, cambieremo l'Italia. Questa era l'apertura del Fatto Quotidiano, che poi ovviamente dettaglia nelle pagine interne la serata e tutti i commenti. E poi a pagina 3 riprende un tema che compare anche su altri quotidiani, ma che noi appunto leggiamo qui. Instant poll, pasticcio Rai, ne scrive Sara Nicolodi. La paura di Grillo fa 90, soprattutto fa paura agli sponsor politici dei dirigenti Rai. Giovedì pomeriggio, dopo lunghe discussioni al settimo piano di Viale Mazzini, un solerte Antonio Marano, vice direttore generale per il prodotto, ha vergato una circolare interna destinata ai direttori di rete di testata, nella quale si informava che i previsti instant poll targati Nicola Piepoli per la giornata di lunedì sarebbero stati annullati a causa del Movimento 5 Stelle e del pericolo del suo impatto mediatico. E poi qui aperte le virgolette, quindi si riporta un passaggio di questa circolare. Cari direttori, ecco il testo. Alla luce dell'evoluzione della situazione elettorale, che a ridosso del voto si presenta ancora più incerta, soprattutto per effetto della dinamica che riguarda il Movimento 5 Stelle e suo impatto sul sistema politico complessivo, d'accordo con l'Istituto Piepoli e la Direzione Generale, abbiamo deciso di non procedere alla realizzazione degli instant poll, per le prossime consultazioni elettorali, politiche e regionali. Perché questa decisione, il vero cruccio di Marano pare fosse il voto in Lombardia, dove la forbice che separa i due candidati principali al Pirellone, Maroni e Ambrosoli, è davvero esigua. Il dubbio che è sorto è che Marano, uomo di stretta osservanza maroniana, volesse in qualche modo mettere la sordina alla possibile debacle del centrodestra in Lombardia, ed è un dubbio che è rimasto soprattutto dopo che la decisione è rientrata in seguito alle rimostranze di alcuni parlamentari, a partire da quelli del PD e di SEL, che hanno chiesto ufficialmente alla RAI di ripensarci. Prosegue poi l'articolo, noi ci fermiamo qui e, sempre in tema di elezioni, andiamo a trovare una curiosità sulle pagine del Giornale. Allora, la prima non è tanto una curiosità quanto una nota di servizio: lo sciopero è revocato, le edicole saranno aperte nei giorni del voto. Scrive Gabriele Villa, infatti l'informazione sulle elezioni ci sarà e i giornali pure. Infatti rientrato dopo gli appelli giunti da più parti lo sciopero proclamato dal SINAGI, il sindacato degli edicolanti affiliato a SLC-CGL, per il 24, 25 e 26 febbraio, i giorni più incandescenti del dopo elezioni. Anche se è il caso di sottolinearlo, un sindacato, nello specifico lo SNAG, Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai, aderente alla Confcommercio, ha invece confermato la protesta. A far cambiare idea, almeno per il momento, a gran parte degli edicolanti è stato Paolo Peluffo, sottosegretario all'editoria, che ha annunciato per il 6 marzo al Dipartimento dell'Editoria un incontro tra le parti in modo da stilare la base di un intervento normativo del prossimo governo sulla liberalizzazione delle edicole. È indubbiamente necessaria una messa a punto delle norme di liberalizzazione del sistema distributivo per la stampa quotidiana e periodica, ha commentato il sottosegretario. Lo spirito delle liberalizzazioni del sistema distributivo non deve danneggiare i punti più fragili della catena, ma puntare ad un miglior funzionamento del sistema. L'Italia ha caratteristiche territoriali e sociali del tutto peculiari rispetto all'Europa, eccetera eccetera. Ma insomma, comunque, lo sciopero è revocato, i giornali ci saranno e si potranno leggere risultati e commenti sulle elezioni. E poi c'è la provocazione, la notiziola che arriva dalla pornostar tarantina Amanda Fox, di cui c'è anche una fotografia ben vestita, però ben coperta. Amanda, un premio al non voto. Lo promette ai propri fan Amanda Fox, pornostar tarantina di adozione, che aveva anche tentato di scendere in politica come candidata sindaco della città pugliese. Amanda ce l'ha con il Porcellum e invita tutti a non andare a votare. Chi lo dimostra in cambio riceverà un manifesto autografato e osée, non come la foto appunto sul giornale, della bella attrice di origini polacche. Una provocazione, dice lei, per mettere in ridicolo la strapagata classe politica italiana. La foto ritrae il lato B della Fox e riporta lo slogan «Basta con queste facce di C». Più chiaro di così appunto non poteva essere. E adesso cambiamo argomento e andiamo su altri temi, però prima così lo facciamo in maniera soft, passiamo per parlare di politiche, di politici strapagati. Ecco, andiamo in Inghilterra, o meglio in Gran Bretagna, dove sta facendo tenerezza e gira questa fotografia della regina Elisabetta II, che riceve ospiti l'alto rappresentante australiano Mike Cann e la consorte nella sala delle udienze, che è ovviamente una bellissima sala. Ci sono oggetti preziosi, mobili antichi, tappeti rari, e nel caminetto una stufetta elettrica a due resistenze del valore di ben 29,99 sterline, messa dentro al camino tristemente spento, a gettare refoli caldi addosso agli ospiti intiriziti, perché insomma scaldare certo una dimora come Buckingham Palace non è poca cosa. Evidentemente la regina aveva bisogno di un surplus di calore e ha scelto una stufetta del valore di, diciamo, 30 sterline, quindi poca roba specialmente per le tasche della regina, ma è un segnale, e così viene interpretato dalla stampa britannica. Corriere della Sera, di segnali positivi, ne parla nell'editoriale di Angelo Panebianco, che scrive: in un momento storico in cui cupezza, tristezza, tetro pessimismo la fanno da padroni e tutti sembrano crogiolarvisi dentro con voluttà e masochismo, è forse il caso di ricordare che comunque la vita continua e continuerà, e che nelle tenebre qualche piccola luce ogni tanto si accende, quella qualche motivo di speranza pur nella durezza dei tempi c'è. Anche se è una regola della comunicazione che faccia la notizia solo le cattive notizie, conviene anche enfatizzare quelle buone. Quali sono le buone notizie secondo Angelo Panebianco? Ne individua due in questi ultimi tempi. La prima riguarda l'Italia. È ovviamente vista dal suo punto di vista, non è detto che tutti condividano, anzi sicuramente molti non condivideranno. Ci fosse o no il famoso giudice a Berlino evocato da Bertolt Brecht, da ieri sappiamo che quel giudice c'è al Tribunale Civile di Napoli. È il giudice Antonio Lepre che, accogliendo il ricorso di un contribuente, ha emesso la prima sentenza contro il redditometro. Si veda per i particolari l'articolo di Ferrarella del Corriere della Sera di ieri. Il magistrato ha definito il redditometro fuori dalla legalità costituzionale e comunitaria, ossia in conflitto con i nostri principi costituzionali che con la Carta Europea dei Diritti Fondamentali, perché determina la soppressione definitiva del diritto del contribuente e della sua famiglia ad avere una vita privata, a poter gestire autonomamente il proprio denaro, a essere quindi libero nelle proprie determinazioni senza dover essere sottoposto all'invadenza del potere esecutivo, senza dover dare spiegazioni e subire intrusioni su aspetti anche delicatissimi della propria vita privata. E questa è la prima buona notizia secondo Panebianco. La seconda buona notizia risale a un paio di settimane fa, scrive, ma fino ad oggi se ne sono occupate solo le pagine economiche, non riguarda unicamente l'Italia, ma il mondo occidentale nel suo insieme. Mi riferisco all'annuncio fatto dal presidente Barack Obama, il presidente americano, del prossimo inizio dei negoziati tra Stati Uniti ed Europa per la creazione di una grande area di libero scambio, di un compiuto mercato transatlantico, difficile da attuare ma non impossibile. Gli osservatori economici hanno valutato i vantaggi in termini di crescita che la realizzazione di tale accordo procurerebbe sia agli Stati Uniti che all'Europa. Facciamo pure i conti, come facciamo quotidianamente, con tutto ciò che di male i tempi ci condannano a vedere e a subire, ma non facciamo finta di niente davanti a qualche buona notizia, conclude poi Panebianco. Buone notizie sì, però certo ci piacerebbe vederne anche di altro tipo e più di frequente. Proseguiamo tra pochissimo, anzi abbiamo tempo prima della viabilità di passare alle pagine del Secolo XIX, dove viene dato ampissimo spazio all'F-35. Il Pentagono sospende tutti i voli per la seconda volta in due mesi. Il Pentagono lascia a terra gli F-35. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha deciso di sospendere tutti i voli dei cacciabombardieri di quinta generazione della Lockheed Martin, proprio gli stessi aerei che l'Italia intende acquistare con un investimento miliardario. La decisione è stata presa dopo che sulla turbina di uno dei supercaccia è stata rilevata una frattura. Si tratta di una misura prudenziale, hanno spiegato i responsabili del Pentagono in un comunicato via email, in attesa di conoscere i risultati dell'indagine sulle cause del danno. Segue dettagliata spiegazione di cosa succede a questo aeroplano. A fine gennaio, poi più avanti, scrive sempre il presumibilmente Enrica Battifoglia, scrive, a fine gennaio un rapporto del Pentagono aveva lanciato l'allarme sicurezza sul cacciabombardiere più caro della storia. Secondo gli esperti americani, l'aereo sarebbe vulnerabile ai fulmini a causa di un errore di progettazione del serbatoio. La Lockheed Martin aveva subito assicurato che il problema era in via di soluzione, mentre in Italia infuriava la polemica. L'Italia aveva infatti inizialmente previsto di spendere 16 miliardi di euro per dotarsi di 131 cacciabombardieri. L'ordine è poi sceso a 90 esemplari, la contropartita è un ritorno industriale per l'Italia di 9 miliardi di dollari, ma se l'Italia ridurrà ulteriormente il numero di aerei ordinati, è l'avvertimento della Lockheed, noi ridurremo proporzionalmente l'entità dei nostri piani industriali per l'Italia. Viceversa, se l'Italia aumenterà gli ordini, aperte le virgolette, ci sarà un aumento proporzionale e concomitante dei ritorni. Nella fabbrica della Lockheed Martin di Cameri, in Italia, si stanno producendo le ali per gli F-35 di tutto il mondo. Se l'Italia aumenterà gli ordini, promettere la Lockheed, aumenteranno anche le ali prodotte a Cameri. Grazie anche al nostro ordine, comunque. Gli F-35 sono stati anche un argomento della campagna elettorale, si è sentito effettivamente questo tema affrontato qua e là, ma è il momento di dare la linea alla viabilità e proseguiamo tra poco parlando di lavoro. Come dicevamo, proseguiamo parlando di lavoro, lo facciamo attraverso le pagine del Sole 24 Ore e non solo, poi proseguiamo anche su altri quotidiani. L'apertura, come dicevamo, del Sole 24 Ore, ma la ricordo, Europa un altro anno di recessione, Italia verso la promozione, sul deficit, promozione europea, sul deficit, Moody's toglie a Londra la AAA, questa era l'apertura, e poi si specifica ancora un anno di recessione per l'Eurozona, mentre Londra perde la AAA con il taglio del rating deciso da Moody's. Secondo le previsioni invernali della Commissione europea, nel 2013 la contrazione del PIL sarà dello 0,3% contro una previsione precedente di più 0,1%. La ripresa si verificherà solo nel 2014 con un incremento dell'1,4%. L'Italia si avvia a ottenere la promozione dell'Europa. Per il commissario Rehn non è necessaria una nuova manovra ed è possibile che la procedura di infrazione per deficit eccessivo iniziata nel 2009 si chiuda dopo le previsioni di primavera. Ma la situazione italiana rimane fragile e allarme sulla disoccupazione al 12%, Francia bocciata su deficit e crescita, eccetera eccetera eccetera. Ma restiamo sul tema del lavoro in Italia, quindi allarme sulla disoccupazione al 12%. Cosa scrive Alberto Orioli, sempre sulla prima del Sole 24 Ore? Una discussione pubblica per 20 anni concentrata sulla polemica feroce sui diritti al lavoro o del lavoro ha sviato il confronto sull'unico argomento efficacemente riformista, per non dire rivoluzionario, il dovere del lavoro. Letto con questo titolo, il tema diventa una prospettiva privata, ma anche necessità sociale, collettiva, e conduce al patibolo delle proprie responsabilità intere classi dirigenti di maggioranze di colori diversi. Se oggi la disoccupazione in Italia si riassume in quel 12% che preoccupa l'Europa, significa che chi doveva congegnare politiche utili a crearlo, il lavoro, ha fallito. Tardivamente il tema è stato riconosciuto come centrale nella campagna elettorale, ma chiunque di noi ricorderà questi 2 mesi furenti di invettive e tatticismi, come la tensione sulle tasse, declinate in vari registri, algidamente tecnico a tratti, grossolanamente populista e demagogico in molti più casi, remissivamente realistico in altri. Sono rimasti sul fondale dati drammatici come la perdita di 16 anni nel reddito per abitante, siamo tornati ai livelli del 97, o la caduta di un quarto della produzione, nonché qui circa 9 milioni di lavoratori o per lo più ex lavoratori finiti oramai nell'area del disagio sociale, le stime CGL. Il dovere del lavoro invece impone per il decisore pubblico strategie concrete per realizzare occasioni di impiego. Nel migliore dei casi si traduce in un'azione coordinata e sincronica di politiche industriali, di strategie fiscali, di iniziative strutturali di formazione e di investimento nel capitale umano. Lo hanno capito per necessità la Spagna con il suo massiccio programma di alleggerimento fiscale del lavoro flessibile, con la nuova concreta attenzione, sconti fiscali alle piccole e medie imprese, o la Francia con la fiscalità agevolata per le PMI e il credito d'imposta per la ricerca. Una versione più ristretta sarà operativa anche in Italia, ma avrà impatto su numeri più limitati. La Germania da tempo punta su tasse basse e produttività alta, fatto che la rende il paese più competitivo d'Europa. Parli di lavoro e scopri il dovere di attenzione all'economia reale, alla manifattura, all'edilizia, che da sola ha perso 550.000 posti di lavoro, ai campioni dell'export, a chi ha il coraggio di modificare l'organizzazione interna, le linee di produzione. Insomma, il lavoro significa impresa. E poi prosegue nelle pagine interne Orioli, ma andiamo su quelle di Avvenire. Per una storia che riguarda sì il lavoro e l'impresa, ma che finisce male in un certo senso e bene da un'altra parte. Artigiano di Padova, rapinatore per crisi. Scrive Francesco Dalmas: rapinare una banca per pagare i debiti di altri istituti di credito e così tentare di far sopravvivere la propria attività artigianale, farsi scoprire, ammettere le proprie responsabilità, vedersi ridotta la pena per il proprio stato di indigente, più precisamente di vittima della crisi. È l'avventura di cui è protagonista un piccolo imprenditore del profondo nord-est, Danilo Cappellotto. Ero in gravi difficoltà. Avevo 40.000 euro di debiti, molti non mi pagavano i lavori che facevo ed io non riuscivo a saldare le banche. Disperato, Cappelletto, scusate, 43 anni, di San Giorgio in Bosco, un divorzio alle spalle, due figli da mantenere, artigiano, nel settembre dell'anno scorso si inventa rapinatore, confeziona un pacco, dentro ci mette 4 bicchieri per fare volume, si fionda alla filiale di Castelfranco Veneto della Banca Popolare di Vicenza, depone l'involucro sul bancone e minaccia con voce stentorea: «C'è una bomba, dammi i soldi!». Dall'altra parte c'è un'impiegata, è incinta, ha paura e riesce solo a dire: «La cassa funziona a tempo, non riesco ad aprirla». E il rapinatore non si innervosisce, non torna all'assalto, ha paura pure lui e scappa in sella a una Honda Custom. Le telecamere lo riprendono, l'uomo non era riuscito neppure a mascherarsi bene, veste soltanto una maglietta, in mano un sacchetto di carta, probabilmente per riporre il bottino, porta occhiali scuri, nient'altro. Niente, insomma, di quello che farebbe pensare a un rapinatore. I carabinieri lo individuano infatti immediatamente e dopo 10 minuti l'arrestano e poi l'accusa di tentata rapina. Il processo, come dicevamo, l'epilogo, qual è? Sta l'altro ieri la condanna. Al termine del rito abbreviato, condannato a 1 anno e 6 mesi, ma con la sospensione condizionale della pena, peraltro scontata di un terzo, e la modifica della misura cautelare dagli arresti domiciliari al solo obbligo di firma ma presso i carabinieri del suo paese. Ultimo istante per segnalare sul Messaggero: le scuole migliori, quelle multietniche. Una ricerca utilizza i dati Invalsi e premia le classi con immigrati. I test fatti su quasi 3 milioni di studenti nel 2012 hanno evidenziato che lo scarto medio tra italiani e non italiani si sta riducendo sempre più, al punto che gli stranieri di seconda generazione sono praticamente allineati agli italiani. In terza media in italiano la differenza è di 7 punti, mentre in matematica di appena 3. Ma quello che sorprende è che questa differenza si riduce nelle regioni che hanno una maggiore presenza di alunni stranieri. Tanto per fare un esempio, nel Veneto, la seconda regione in Italia per numero di alunni stranieri, con 89.367 presenze, i risultati degli studenti nelle prove di matematica sono superiori di 35 punti rispetto alla Sardegna, solo 4.741 alunni stranieri, quart'ultima nella classifica nazionale, che è la regione con gli esiti più bassi. È tutto per la rassegna stampa, da Laura Bettini un buon proseguimento di giornata, ora la linea va a GR24.